Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo solo dell'impatto del coronavirus sull'economia, perché oggi il ministro Gualtieri, lo faremo nella seconda ora del programma, ospite di Maria Ratella e Simone Spezzi, ha toccato anche i temi su IRPEF e IVA. Né mi interessa particolarmente la polemica politica, governo di unità nazionale, sono arrivati già i no da quasi tutti, però... diciamo così, che la polemica politica segnala che la situazione si sta in qualche modo normalizzando. Vedo che adesso tutti stanno dicendo bisogna riaprire le scuole, il governatore del Veneto Zaia, l'ordinanza deve essere revocata, abbiamo un incremento di contagiati che è minimale, una decina di casi in più, di cui più della metà asintomatici, gli altri non sono gravi. Nessun divieto a frequentare bar, ristoranti, e Cirio, governatore del Piemonte, ha detto siamo più vicini alla normalità e siamo convinti che ci siano le condizioni per iniziare a farlo, ma prima di tutto viene la sicurezza delle persone. E poi anche Fontana ha detto le decisioni sulle scuole lombarde la prenderemo nel weekend. Il sindaco di Milano Sala ha detto, ha pubblicato uno spot su Facebook, Milano non si ferma, e anche De Magistris ha detto stiamo bloccando l'Italia, se continuiamo così conteremo centinaia di migliaia di disoccupati, un crollo verticale dell'economia, una macelleria sociale, più morti di suicidio che di coronavirus. Ora io sono molto contento di tutto ciò, però devo anche far notare che le dichiarazioni anche dei governatori forse sono state eccessivamente allarmistiche venerdì e sabato. Ieri abbiamo criticato il Presidente del Consiglio perché, e confermo, secondo me la linea di stare nel bunker della Protezione Civile come se ci fosse stato un terremoto, ma i terremoti purtroppo li abbiamo visti, i terremoti fanno subito feriti, morti e anche persone da soccorrere. Lì si poteva invitare chiaramente gli anziani a stare a casa, la prevenzione, l'eccesso anche di copertura mediatica e poi quello che ci hanno messo i giornalisti, per carità. Però io sono molto contento perché Zaia adesso dica che bisogna tornare, l'ordinanza deve essere revocata, non c'è nessun divieto, e che Sala dica Milano non si ferma, e che Fontana dica... Però voglio dire, al sindaco Sala dico che forse chiudere i bar in quel modo assurdo dalle 18 in poi è stata una mazzata che dava la sensazione, per chi è stato a Milano in questi giorni come sottoscritto, di una bomba atomica nella città, no? Perché se tu chiudi bar dopo le 18 i ristoranti a quel punto sono vuoti, cioè non si capisce poi la logica, non voglio tornare sulla polemica, ma la logica non è così stretta. L'abbiamo battezzato il Corona Spritz Virus, non si espande solo dopo le 18, ho capito che sono i luoghi di maggiore assembramento, ma allora gli anziani che sono categorie più a rischio al bar ci vanno la mattina, cosa facciamo? È sembrato, diciamo, che tutta la situazione, e ricordo le dichiarazioni dei governatori, anche di Zaia, che parlava di guerra, di una minaccia mai affrontata. Io le ho tutte qua, di quelle di venerdì 21 febbraio, l'allerta è massima, ci stiamo preparando un'emergenza più importante, siamo preoccupati, misure prudenziali di massima allerta, un campo base con tende riscaldate che possa fungere da punto di riferimento. E sabato la mole delle richieste potrebbe essere stata mandare in tilt gli ospedali in assenza di nuovi casi. Domenica, parlo sempre di Zaia, il provvedimento più grave, la partita peggiore che si è toccata al Veneto. Ragazzi, è facile dirlo dopo, però io ho avuto la netta sensazione che ci fosse un po' di protagonismo, un po' anche mettere le mani avanti, dire noi siamo pronti, ma ripeto, un conto è il terremoto o catastrofi naturali che abbiamo purtroppo visto in questo paese, e un conto è iniziare a blindare una città, lasciamo stare Codogno, i focolai, abbiamo chiuso Milano, sono contento che il sindaco Sala faccia l'appello, ma abbiamo chiuso Milano con due casi, no? E con una logica del tutto, insomma, che a me continua a sfuggire. E soprattutto la cosa che mi sta più sulle scatole è che a quel punto la percezione all'esterno è stata di un paese tutto, diciamo, siamo diventati cinesi d'Europa. E quindi la corsa è stata sì un po' il protagonismo, non ho problema a dirlo, da parte del Presidente del Consiglio, ma anche dei governatori, Fontana, Zaia, e anche forse il sindaco di Milano. E poi una non gestione, diciamo, in maniera più calma, perché abbiamo passato un weekend di comparsate televisive dappertutto. Allora, lunedì 24 febbraio è sempre il governatore Zaia che dice: lo dico, lo ripeto da settimane, il virus non ha colori politici, siamo in guerra. Misure che mai avrei immaginato e mai avrei voluto. Ho chiuso scuole, università, il Carnevale di Venezia. Ma qui siamo in guerra, dobbiamo sconfiggere il virus. Sono stati i veneti a inventare la quarantena. Oh, tende specialmente attrezzate. Non escludo di rinnovare il provvedimento. Poi faccio notare che sia Zaia che Fontana, che anche Sala, da mercoledì in poi hanno iniziato a cambiare il tono, perché Zaia ieri ha detto: con questo eccesso di zelo, facendo tamponi a chiunque, anche a chi sta bene, andiamo a ingolfare il sistema. E infatti abbiamo fatto 10.000 tamponi contro i 1.000 di Francia e Germania messi assieme, e abbiamo 10 volte i casi. E Fontana stesso che dice: attenzione, corsa agli alimenti non ha senso, è poco più di una normale influenza. Martedì, dopo che domenica aveva detto che si stava valutando un ospedale dismesso su tutte le alberghiere disponibili. Cioè, e anche il Presidente del Consiglio Conte, che se venerdì dice sabato sorpreso dal numero dei casi, forse non è così rassicurante. Poi ci hanno messo del loro anche i media, ci mancherebbe, non tutti nello stesso modo, però è inutile immaginare che alcuni programmi che fanno sensazionalismo su tutto non vadano a farlo se tu partecipi a quei programmi, e non mi sto riferendo solo ad Urso o ad altri, dai. Ancora, oggi tutti tranquillizzano. Poi c'è stata la dichiarazione di Ricciardi, che ha detto sostanzialmente: attenzione, io da qui voglio partire oggi. I casi positivi al coronavirus si possono definire solo dopo la conferma dell'Istituto di Sanità. E quindi sono circa 100, sono, no, 190. Quelli comunicati dalle regioni devono essere considerati come casi sospetti. Le regioni hanno l'obbligo morale di seguire le indicazioni centrali, altrimenti si genera il panico complessivo o collettivo. Quindi i casi accertati e confermati sono 190. A chi mi dice: sì, ma non lo dicevi prima. No, guardi, io lunedì ho fatto il programma prendendo in giro anche gli italiani, per modo di dire, che si sono precipitati a comprare l'acqua e il latte, per cui non c'è solo i governanti nazionali, regionali e comunali, ci sono anche i cittadini che si sono messi a comprare latte, acqua, pasta, come se avessero bombardato la città o le città, perché poi sto fatto anche in regioni non colpite. Ho criticato i governatori, penso al Friuli, zero casi, scuole chiuse. Poi c'è il genio delle Marche, il governatore delle Marche, eccolo qua, adesso è arrivato. Il TAR delle Marche, con decreto urgente del suo presidente, ha sospeso in via cautelare l'ordinanza con cui la regione Marche aveva disposto la chiusura di scuole e musei e inibito tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura fino alle 24 del 4 marzo. Ora, il presidente della Regione Marche ci deve ancora spiegare perché tardivamente e a casi zero ha deciso di questo, e l'ha impugnata con, il governo l'ha impugnata e lui è andato dritto. Sarà una coincidenza? Alcune di queste regioni hanno le elezioni? Non vorrei mai che si utilizzasse la vetrina, diciamo, la paura del coronavirus per dimostrare che si è i più fighi del bigoncio. Anche noi chiudiamo, anche noi abbiamo le tende. Non è una gara a chi chiude di più, a chi ha più tende, a chi ha più casi, eh? Una roba seria che va gestita senza dare fuori l'impressione che, voglio dire, il paese sia tutto blindato. Infatti hanno cancellato qualunque cosa anche su Firenze, che non ci risulta avere nessun focolaio. E tanto adesso che il danno è stato fatto, che i cocci, se forse abbiamo esagerato, adesso si fa marcia indietro, va benissimo, per modo di dire. Allora, sentiamo Ricciardi sulla sovrastima dei veri infettati, e quindi di casi positivi, che sono 190, è una bella differenza sui 500 e passa che stiamo commentando. Vorrei chiarire questa cosa perché si sta generando un po' di confusione. Dall'altro ieri abbiamo deciso che la definizione di caso deve essere fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, perché quello che succede è che i laboratori regionali, e questo test, lo ricordo, è un test che è ancora, non voglio dire sperimentale perché adesso si sta perfezionando, ma ancora degli enormi margini di miglioramento, può dare, diciamo, dei falsi positivi e dei falsi negativi. Per cui è importante che quelli che emergono dalle regioni siano ancora considerati casi sospetti, non confermati. Chiaramente c'è un gap di tempo perché l'Istituto Superiore di Sanità deve confermarli, però la cosa importante è che le regioni non facciano comunicazioni, perché per l'impegno di trasparenza che noi abbiamo nei confronti delle istituzioni internazionali, se loro dicono che quello è un caso, anche se sospetto e non confermato, noi lo dobbiamo comunicare a livello internazionale. Quindi sostanzialmente, se noi ci fossimo attenuti a un procedimento, in questo momento noi ufficialmente ne avremmo 190. Vabbè, Zaia dice nessuna sovrastima, i dati nostri sono validati dall'Istituto Superiore di Sanità, e poi però dice appunto ci sono decine di l'incremento dei contagiati è minimale, una decina di casi in più, di cui più della metà asintomatici e gli altri non gravi, quindi va verso il mantenimento dell'ordinanza fino all'1 marzo, e poi ritiene che l'ordinanza deve essere revocata. E poi dice Zaia, si tratta di una pandemia mediatica che vive sui social, e ricordo che in Veneto nessuna attività commerciale è stata bloccata, il Veneto non è bloccato e nessun divieto a frequentare bar e ristoranti. Allora, chi mi scrive ah, quindi adesso è più importante l'economia, quindi a me interessa solo il fatturato, chi se ne frega se le persone muoiono. Allora guardate due cose, intanto a me continua a interessare anche, o siamo i più geni noi, o non si capisce perché Germania e Francia siano molto molto più prudenti nel fare i tamponi e hanno meno casi. Per carità, uno può anche dire che loro stanno, io non mi capacito della Germania che ha 80 milioni di abitanti, primo paese nei rapporti con la Cina, 40.000 tedeschi in Cina e con così pochi casi. Però io non ho detto che prima viene il fatturato, ho detto che gestire un'emergenza come quella che si è verificata venerdì è cosa assolutamente corretta e giusta, che forse si è esagerato nella, diciamo, componente mediatica, che poi chiaramente i media hanno cavalcato e quant'altro, questo lo posso dire, no, nel senso tutto normale, ma poi adesso con un cambio di passo qualcuno mi dice Fontana con la mascherina che non serve, sì lo so, l'ho vista anch'io, quella mascherina non serve, l'abbiamo spiegato in tutti i modi, ma non è questo. Adesso parte l'operazione minimizzazione, ora i tamponi solo chi è sintomatico. No, il problema è che tu non puoi però avere un paese che fa 10.000 tamponi e i tuoi vicini che ne fanno 500 a testa. Okay? Allora, o sbaglia uno o sbaglia l'altro. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne sta dicendo di tutto, non si capisce una mazza. Prima dice che prepariamoci una pandemia e la finestra per contenere si sta chiudendo, poi dice no, panico, oh. Pure lì non scherzano, quanto a... va bene, sto guardando molti messaggi che stanno arrivando. Ancora, devo dire che a parte il TAR che ha obbligato la Regione Marche, io spero che però se queste iniziative sono state fatte per creare consenso politico, spero che anche gli elettori delle Marche se ne ricordino di sta cosa, perché a fronte di nessuna gravità, di nessun caso, tra l'altro con un'Italia che continua a dare l'immagine che la cosa non sia relativa solo a un pezzo della Lombardia ma a tutto il paese, ci manca solo che questi continuino. Oggi la cosa più bella però la voglio regalare a De Magistris, perché De Magistris è riuscito ieri a chiudere le scuole, ad annunciare la chiusura delle scuole per igienizzazione. Ora, l'igienizzazione va fatta sempre, le scuole ci mancherebbe, è una cosa buona e giusta, ma perché legarla al coronavirus? Vorrei riprendere la battuta di ieri dell'ascoltatore che ha detto, mi scusi, ma mica è il coronavirus, mica sono le blatte o gli scarafaggi. E quindi non abbiamo capito perché improvvisamente l'igienizzazione adesso, non parliamo della Sicilia, ma adesso arriva Musumeci, Sentite De Magistris oggi che dice stiamo bloccando l'Italia per colpa di un'isteria, ci stiamo facendo del male da soli, una macelleria sociale, dobbiamo essere più vigili, ma il panico, l'allarmismo e l'isteria no, andare a comprare 40 bottiglie di olio al supermercato è una follia. Sono d'accordo, ma perché hai chiuso le scuole? De Magistris, sentiamo. Italia, tra breve conteremo, se continuiamo in questa direzione, lo voglio dire in modo molto chiaro, centinaia di migliaia disoccupati, un crollo verticale dell'economia, una macelleria sociale e probabilmente più morti di suicidi che di coronavirus. Allora io sinceramente mi sento, dopo tutte le informazioni che ho acquisito, non andare un messaggio di superficialità, perché qua bisogna essere tutti vigili e giustamente preoccupati, ma altra roba è il panico, l'allarmismo, l'isteria politica, istituzionale e mediatica. Andare a comprare 40 bottiglie di olio al supermercato è semplicemente una follia. Tra qualche ora seguirà ordinanza del sindaco di Napoli con cui disporremo che in tutti i luoghi in cui c'è vicinanza, assembramento, affollamento di persone bisognerà procedere a altrettanta programmazione di igienizzazione. Cioè noi lo stiamo già facendo, gli autobus che oggi circolano di meno, le metropolitane, gli uffici, lo dovranno fare tutti, lo dovranno fare anche i privati, un'ordinanza, è un ordine, si deve fare e si deve seguire. Senza allarmismo, è una procedura di igienizzazione che serve ad abbassare, a ridurre il rischio di contagio, fino anche di altre patologie, quindi comunque è una cosa, come dire, utile, visto che c'è una forma, come dire, di influenza nuova che ha scatenato, come dire, un'emergenza addirittura nazionale e l'attenzione massima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È fantastico questo, da un lato... Oh, meglio ancora fa oggi Musumeci. Qualcuno mi dice, ma perché? No, guardate, io non ho intenzione di passare sopra questo, perché vedete, non è il problema che i soldi contano più della salute. Intanto devo capire il danno per la salute, ma soprattutto il danno economico è certo. Vi leggo adesso, allora mi ha scritto, me ne leggo due a caso. Uno, non dico nome e cognome, furibondo con la gestione politica in Israele, pensano che siamo tutti appestati. Mio figlio, un neuroscienziato, è stato bloccato poco prima della partenza per Tel Aviv. Addio dottorato, addio esperienza professionale, sono imbuffalito. Adesso mi ha scritto dall'hotel da Lignano, Sabbia d'Oro, 100% cancellazioni per tutto il mese di marzo, tutti austriaci convinti che siamo tutti in quarantena. In Friuli, a Lignano, Sabbia d'Oro, casi zero. Casi zero. Ma poi c'è qualcuno che mi dice, ma lei pensa solo ai soldi. Ma come no? Abbiamo creato un enorme ghetto, un enorme sanatorio, lazzaretto, diciamo, sopra il Po, ma anche un po' sotto, visto che poi saltano le visite a Firenze, visto che ci mette quello delle Marche, e io dovrei stare qua tranquillo a dire, beh, intanto abbiamo fatto bene a creare il lazzaretto, l'Italia lazzaretto, 100% di cancellazioni nella stragrande maggioranza degli alberghi, almeno diciamo sopra, magari fosse il Po, sopra l'Arno. Allora, Musumeci, meglio se dal nord non vengono. La Sicilia non è una terra in cui si può sbarcare, non si può atterrare, però servono controlli. Perché non è possibile che i due casi registrati riguardino turisti del nord. Nella nostra isola non c'è focolaio, sarebbe meglio che i turisti del nord non venissero. Musumeci del nord cosa intende? Mi dà una sua idea, da, diciamo, a posto per evitare il panico. Dal nord intendiamo dalla Val d'Aosta al Friuli, e tiriamo dentro anche l'Emilia Romagna, dai, visto che c'è, facciamo come hanno fatto gli americani. Tutto ciò che è a nord di Pisa, quindi Grosseto può, Pisa e Lucca sono fottute, anche Firenze, Emilia Romagna, ci attaccherei anche un po' di Marche, appunto, per essere coerenti col governatore. Facciamo il centro nord, Musumeci? E questo è il modo in cui lei comunica la gestione del problema? A parte il fatto che sarebbe troppo facile per me ricordare a Musumeci che la sua regione si regge con il miliardo e passa di debiti che ha sui soldi di tutto il resto d'Italia, se no eravate a gambe all'aria da 20-30 anni. E quindi un po' di riconoscenza per chi paga con le tasse i buchi che le gestioni della regione siciliana hanno lasciato in questi anni, magari no. Ma poi avesse detto Codogno, avesse detto Milano, per carità, cioè, il nord tutto, anche Mantova che ha zero casi. Musumeci, che dobbiamo fare? prossima volta che salta un grosso comune tipo Catania, che l'abbiamo rifinanziato 2 o 3 volte con i soldi nostri pubblici, diremo che è un problema solo di Catania e poi ve le beccate voi le persone in strada a cui non riuscite a dare i servizi minimi. Chiedo Musumeci, mi dica lei, e soprattutto mi può chiarire nella sua concezione quali sono le regioni degli abitanti del nord che non devono venire in Sicilia, così ci prepariamo. Vale anche per l'estate, Musumeci? No, perché se è così io so che c'è, direi, ma neanche quest'estate. Però poi non è che può chiedere aiuto la calamità se non vengono i turisti del nord a pagare le spiagge, gli alberghi, i ristoranti, i resort, gli investimenti fatti in Sicilia. No, lì se la deve gestire da solo, dovrà tagliare un po' di spesa pubblica non produttiva. Tanto c'è qualcosa da tagliare in Sicilia, Musumeci, si figuri. Magari tagliare anche un po' di deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Ah, ma non può, perché adesso l'Assemblea regionale siciliana, mentre Musumeci diceva così, ha chiuso per 4 giorni per igienizzazione, pure lei. Sono penoso, va bene, non si preoccupare. Allora, andiamo adesso ai temi economici ancora più stretti, quindi l'andamento dei consumi, la borsa oggi, tutte le borse, tra l'altro Milano è quella che perde meno, meno 2,60%, negativa Parigi del 3,20%, Francoforte del 3%, Londra del 3,14%, Dow Jones meno 2%, quindi non è un elemento nazionale, c'è una debolezza e un'incertezza sulle prospettive, sì, economiche del coronavirus a livello mondiale. Il petrolio continua a essere bassissimo, dopo il meteo e la pubblicità, l'andamento delle borse, ma soprattutto anche le previsioni sui consumi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Musumeci. Musumeci, Nello Musumeci. È bello perché, no, ma tenetemi malamore che ci sta con Musumeci. No, è bello perché stiamo dicendo, per favore, cerchiamo di non dare un'immagine all'ES. Mi stanno scrivendo che cancellano gli agriturismi a Pasqua, a Mantova, ci sono 0 casi, in Friuli 0 casi. Ma immagina uno all'estero che poi vede il governatore della regione Sicilia, Nello Musumeci, regione nota per il suo virtuosismo finanziario e per come gestisce la sanità, dire, per favore, meglio se dal nord non vengono. Che deve pensare lo straniero? Ma non si può avere qualche azione di responsabilità per le dichiarazioni ad minchiam dei governatori di queste regioni che stanno dimostrando che forse il meglio della politica lo mandiamo quasi a Roma? Ed è tutto dire. No, perché voglio dire, giustamente molti ascoltatori mi dicono, mi scusi Musumeci, ma allora tutte le centinaia di migliaia di pazienti che mandate nella sanità del nord, dobbiamo ragionare così? Visto quello che spende la regione Sicilia in compensazioni per mandare sui pazienti in Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna, facciamo così? Ognuno si curi i suoi? Lei sa cosa sta rischiando, vero? L'assalto coi forconi se capita una roba del genere. Musumeci. Perché i 2 casi registrati al coronavirus riguardano turisti del nord. E lì sono la maggior parte. Tutto del nord. Nord. Possiamo stringere, c'è Google Maps se vuole, Musumeci. Magari stringa un attimo Codogno, dove gli 11 comuni, quelli veneti, no, così. Ma giusto per non fare danni ulteriori ai friulani, ai valdostani, a chi ne ha pochi. Oh, mi ha scritto adesso un tassista di Roma, perché è bello parlare di economia in questo modo. Faccio un tassista a Roma, aeroporti, stazioni immobili, per non parlare delle strade vuote dopo una certa ora, ristoranti locali compresi, e siamo ben al di sotto della zona rossa. E lo so, e non vi ha ancora sentito Musumeci, se no dice anche il centro nord. Che poi adesso il Parlamento siciliano non potrà neanche rispondere perché lo stanno igienizzando, e lì insomma. Ho detto igienizzando, non bonificando, perché le bonifiche si fanno per un'altra cosa, per le cimici, ma quelle non animali. Ho detto igienizzando. Per 4 giorni è chiuso, perché è un'igienizzazione che va a scavare sotto, nelle fondamenta proprio. Musumeci, chieda scusa, va. Buona consiglio Musumeci, chieda scusa. Certo, abbiamo visto anche altre persone. Ieri la desolazione di Milano in questi giorni è anche che tutti i ristoranti giapponesi e cinesi hanno automaticamente chiuso le saracinesche fino al 1° marzo, perché anche noi siamo stati, diciamo, belli, no, tosti nel pensare che te mangiavi un sushi, ti beccavi il coronavirus, però non durante l'aperitivo, perché lì almeno gli aperitivi li abbiamo bloccati. Eccola. Musumeci. Dai, arriverà la correzione da Palazzo d'Orleano, dai. Non c'è già voglia di chiudere. Giorgio Sant'Ambrogio, amico delegato del gruppo Vege, presidente dell'associazione della distribuzione moderna, buonasera. Buonasera a lei. Ah no, un appello lo devo dare adesso. Mi ha scritto un medico del Sacco, che però vuole restare anonimo, dicendo che hanno problemi adesso devo riprenderla però, nelle donazioni di sangue, che non c'è nessun motivo per allentare le donazioni di sangue e che la struttura è assolutamente in sicurezza, quindi per favore cercate di non creare problemi. Chi ha voglia di donare il sangue non abbia problemi a donare il sangue. Anche Musumeci, se vuole, doni il sangue al nord, visto tutto il sangue che abbiamo donato noi al sud. Musumeci. Sant'Ambrogio, buonasera, immagino che sia un attimo Sant'Ambrogio. Buonasera, posso fare un appello io? Mi dica Sant'Ambrogio. Vege è leader anche in Sicilia, per cui noi invece accettiamo tutti, nord, centro, sud. L'headquarter di Vege a Milano, ma in Sicilia venite tutti a fare la spesa, altro che accettiamo tutti. Vabbè, adesso non faccia però anche lei che mi fa pure il promo. No, a me le interessa come presidente dell'associazione della distribuzione moderna, perché... vorrei capire che cosa state registrando voi. Sei penoso, mi scrive uno ascoltatore. Va bene. Era riferito a me o Musumeci? Allora, Confesercenti, rischio consumi da meno 2 miliardi e 200 milioni. Allora, qui io voglio capire una cosa. Sulle fiere e su alcuni viaggi, ma anche d'affari e di turismo, di diletto, possiamo immaginare o sperare che, appunto, molte le hanno posticipate e che uno posticipi il viaggio o quant'altro. Sui consumi ho più difficoltà a immaginare che uno vada al ristorante il triplo, mangi 4 cene al giorno, prenda 4 aperitivi al giorno, vada a fare la spesa, a parte il saccheggio irrazionale che c'è stata. Il problema è che una volta persi quei consumi non ritornano. Ma allora, lei ha visto, mi chiamano tipo una gaussiana che ha avuto il picco nella domenica e lunedì, sabato, domenica e lunedì, perché avere degli incrementi, soprattutto nelle categorie grosseri, tipo appunto scatolame, pasta, caffè, pannolini, farina, passate, del 100-170% nella categoria food, poi la pagheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché quando un cliente si compra 10 kg di pasta a semola secca, poi in realtà, come diceva lei, non è che si riprende tutto in una serata e via, no? Quello che c'è da sperare è che i consumi continuino per quanto riguarda i prodotti freschi, perché quelli stavassano dirsi, tranne alcune cose veramente che nella drammaticità ci hanno fatto sorridere. Abbiamo visto clienti che prendevano 3, 4, 5 litri di latte fresco in questi giorni, che vabbè, è un po' buffo, però i prodotti grosseri la settimana prossima saranno flat. Ci sarà un solito tran tran dei prodotti freschi, dei prodotti freschissimi. Quella che abbiamo visto anche molti surgelati, molto carne in questo picco del weekend. La carne poi la surgeleranno, i surgelati anche. Noi temiamo, visto che da mesi come associazione di distribuzione moderna tutte le insegne sono attente a sensibilizzare sullo spreco, quindi la lotta allo spreco, ecco un proclama che vorremmo fare, sommesso, perché comunque penso che il cliente italiano cittadino sia già ben consapevole di questo, però non sprechiamo quello che abbiamo comprato, perché in effetti altri aneddoti mi hanno raccontato 7-8 confezioni di insalata iceberg in un giorno. Sì, ma paradossalmente adesso, se devo ragionare solo in chiave economica, avete venduto molto di più e molta gente si ritrova con l'insalata che marcisce, il latte che puzza, le uova che siano di freschine e cavoli loro, l'acqua almeno quella si può bere, ma non troppa. Però il problema è, perché allora i Confesercenti stimano una perdita di spesa di 2 miliardi e 200 milioni entro giugno? Cioè, voglio dire, paradossalmente sembrerebbe quasi che ci sia stato un eccesso di spesa dovuto appunto all'isteria e poi la spesa tornerà fisiologica, no? Sì, rientrerà fisiologica, probabilmente Confesergenti pone molto l'attenzione sul piccolo singolo punto di vendita, mentre in questi giorni, oltre al piccolo punto vendita, il boom l'hanno fatto le imprese della moderna distribuzione organizzata. Detto questo, già oggi ho verificato un più uno nei ipermercati e un più sei nei supermercati, quindi stiamo tornando a un regime di normalità. Diciamo che c'è stata veramente questa, come dire, migrazione della psicosi dal nord al centro e al sud, questo boom anche enfatizzato, poi in realtà noi la pagheremo nei prossimi giorni in termini di flat dei consumi grocery. Detto questo, io non penso che nella moderna distribuzione associata ci siano perdite di miliardi nei prossimi mesi, ecco. Beh, questo già ci nella distribuzione, perché forse è il settore meno colpito da questo punto di vista. Che cosa teme invece? Ripeto, quando parliamo di consumi, anche di acquisti giornalieri o comunque settimanali, al massimo ci può essere stato un eccesso di acquisto, ma voi temete invece un impatto o di venire coinvolti anche nell'impatto che io spero di no, ma temo fortemente di sì, avrà il turismo italiano quest'estate? Questo assolutamente sì, e se io posso avere, chiaramente parlo come cappello di ADM, rimetto un attimo il cappello di Vegè, su 3.500 punti vendita, ne abbiamo 3.000 lungo le costiere italiane, questo avrà un impatto incredibile se continuiamo a fare terrorismo, come citava lei prima, nel dire non venite ai turisti, questo assolutamente... No, non venite ai turisti italiani, cioè, neanche turisti all'estero, italiani, figurati che gli esteri. Sia turisti italiani che esteri, per cui questo andrà a impattare su tutti i punti di vendita, sia della moderna distribuzione, ipermercati, supermercati, superette, e anche sul singolo punto di vendita e anche sulla ristorazione, che guarda caso va a prendere nei cash and carry dei nostri punti di vendita, quindi assolutamente questo è da temere, dobbiamo smetterla con questo terrorismo. Bene, quindi per voi è più sposta, mentre per il mondo del turismo e il mondo alberghiero e il mondo dei, abbiamo avuto ospiti in tutti questi giorni, è già un dato di fatto, cioè portano a casa le perdite, voi quello che ho capito state tenendo è più in prospettiva e che chiaramente sì, minor flusso turistico. Sì, avanti le perdite, sì. Vabbè, in bocca al lupo anche a tutti i suoi associati e quindi grazie a Giorgio Sant'Ambrogio, presidente dell'Associazione della Distribuzione Moderna. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, no, oggi Musumeci, dai governatore, è uno stimolo, faccia sta rettifica, ammetta che ha detto una cavolata, che dire meglio che non vengano i turisti del nord è una cavolata, nord che cosa? Nord Europa, nord Catania, nord che? Basta una rettifica, su, se no noi continuiamo a Musumeci. Ora, al di là di Musumeci che è arrivato tardi, ma evidentemente gli altri governatori, e saluto il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Rioli. Buon pomeriggio. Hanno oggi abbassato molto, anzi Zai ha detto che è convinto, adesso non voglio fare la polemica che ho fatto in apertura, andiamo avanti. Meglio che il provvedimento venga sospeso, per lui si può sospendere già da lunedì, Cirio analogo, Fontana ha detto aspettiamo di capire il fine settimana per le scuole a Milano. De Magistris dopo aver fatto giravolta. Allora, al di là dei cambi di rotta, la sensazione politica, Alberto Rioli, è non solo che sia sfuggita di mano a tutti i livelli istituzionali e quindi anche quello dei governatori l'impatto all'esterno, non solo l'impatto sugli italiani che pure ci hanno messo del loro, i media e quant'altro, ma che forse sia sfuggito di mano anche a fronte di un andamento per ora da guardare con attenzione, emergenza, ma sotto controllo, si è sfuggito di mano la percezione all'estero e sono arrivate le associazioni di categoria, anche oggi c'è una lettera importante di tutte le associazioni di categoria che chiedono misure, ma soprattutto chiedono di ripristinare il più possibile una normalità, con un danno diciamo oltre ogni previsione, perché qua stanno cancellando prenotazioni, non si fanno i convegni, non si fanno... Non vogliono gli italiani all'estero quando devono andare a firmare contratti, ce lo stanno raccontando da giorni, per favore non venire in Germania, non venire in Gran Bretagna, non venire in Austria. È questo forse che sta facendo virare politicamente a tutti i livelli, governo nazionale, governi regionali e anche nel caso di Sala il comune, la comunicazione? Io credo che a tutti i livelli sia arrivata netta la percezione che c'è stato un errore di comunicazione. Quello che, per esempio, domenica il Presidente del Consiglio voleva spiegare agli italiani, militarizzando praticamente tutti i talk show, i programmi più popolari, di una necessità di una serie di misure per contenere il rischio, però rassicurando i cittadini che era tutto normale, che era tutto sotto controllo, ha avuto esattamente l'effetto contrario. Chiaramente queste cose è più facile valutarle ex post, certo, è evidente, però c'è ampia letteratura anche per chi fa comunicazione che spiega come vanno gestite le situazioni di crisi. C'era il caso Venezia, scusami se interrompo, esatto. Venezia hanno fatto una cavolata perché dall'acqua alta straordinaria, ci mancherebbe, poi gli erano arrivate le disdette per aprile con i turisti che chiedevano, eravamo a novembre, ma come sarà l'acqua ad aprile? E io ti posso rispondere, è trasparente, come ti posso rispondere? E c'era stata la sensazione di essere andati troppo in là nel lato medio. Qui abbiamo moltiplicato Venezia per, diciamo, due terzi del paese. Assolutamente sì, e c'è un effetto irrazionalità, un effetto panico evidente che colpisce naturalmente le aspettative. Come sai meglio di me, le aspettative sono il cuore poi degli andamenti delle economie, soprattutto su scale globali e soprattutto per quanto riguarda poi i mercati che adesso stanno precipitando, ma non solo naturalmente per il problema italiano. E c'è un effetto poi anche cinico del mercato in senso stretto, perché si stanno consumando moltissime vendette, diciamo così, o tentativi di annullamento di concorrenti importanti, come sono peraltro i produttori dei Made in Italy, dei settori più esposti sull'export e anche più riconosciuti nel mondo come settori d'eccellenza. Cioè è in atto una specie di ostracismo sui prodotti dell'agroalimentare, che naturalmente va a favorire anche probabilmente una grossa parte di quella Italian sounding, le produzioni taroccate che fanno finta di essere made in Italy e non lo sono. Questo solo per citarne uno. L'altra cosa, come riflessione generale, è che questo virus ha colpito al cuore quello che è diventato il made in Italy effettivamente, cioè la manifattura che si riempie di contenuti di servizio e di contenuti narrativi per raccontare uno stile di vita di un intero paese. L'aver colpito sostanzialmente la possibilità per questo paese di fare gli eventi e quindi di mostrare al mondo quello che è, cioè il bello e il ben fatto, che per l'appunto unisce una tradizione culturale e un'abilità riconosciuta, certo, nel mondo, che ci deriva da millenni di abitudine appunto al bello, con invece una caratura manifatturiera assolutamente inarrivabile da parte dei concorrenti, che invece garantisce poi la solidità delle produzioni. Bene, il virus ha colpito purtroppo questa evoluzione importantissima del made in Italy in senso proprio. Allora, chi mi dice, ma guardi che l'Unione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci stanno facendo gli applausi. È vero, l'Unione Europea ha detto anche poco fa che abbiamo ben gestito la cosa, tutto bene. Non vorrei che fossero i complimenti al criceto. Ci stiamo capendo, cioè che noi abbiamo fatto la criceto per tutto il criceto, il topolino del laboratorio. Cioè abbiamo fatto molto bene i nostri compiti, sono tutti contenti. Poi vorrei vedere come stanno facendo i compiti, come sta facendo i compiti chi ci applaude. Francesi e tedeschi per primi, visto che il numero di tamponi sono un decimo di quelli italiani. Cioè non vorrei che fosse l'applauso di bravi, avete fatto bene, avete bloccato l'Italia, bravi così, bravo il criceto perché si è comportato bene. Comunque, tornando a noi, nessuno qua, lo dico agli ascoltatori, sì, la cavia, volevo dire, non il criceto, scusatemi, la cavia. Fate tutti i fenomeni il giorno dopo, neanche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sa come gestire il problema. No, non ho detto infatti che qua si facciano i fenomeni, però si può fare anche una valutazione sulla gestione, non è facile, ma si può fare una valutazione sulla gestione. E ho criticato in apertura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che tutto sta dando tranne che una linea unica, non si capisce una mazza. Prima è terminata la finestra, si sta terminando la finestra, rischio pandemia, però nessun panico, ma va pure lì. Allora, qual è il tema più importante adesso però, Alberto Rioli? Perché tu anche oggi Milano ha perso, adesso vi do la chiusura definitiva di borsa, non è la peggiore, meno 2,60, Parigi meno 3,30, Francoforte meno 3,20%, l'America sta prendendo un 2,30%, Londra ha perso un 3,5%. Qual è il timore più forte? È la variabile tempo, cioè riuscire, il Sole 24 Ore ieri titolava appunto moda e turismo hanno perso, però insomma, per evitare che l'anno si perda completamente o in alcuni settori in cui ancora ci sono dei margini? In alcuni settori, soprattutto il manifatturiero classico, la metalmeccanica, quella che fanno le macchine utensili e cose di questo genere, ci stanno dicendo sostanzialmente che la linea di resistenza è un'altra decina di giorni per non compromettere completamente la stagione, non solo il trimestre che avrebbe poi un impatto su tutta la stagione e sugli ordini di tutto l'anno. E se però si va oltre, effettivamente la situazione è compromessa. Poi basta guardare cosa stanno cominciando a prevedere i centri studi. Stiamo oscillando tra perdite dello 0,3% per i più ottimisti, ma fino all'1% tranquillamente del PIL, cioè il segno finale dell'anno sarà meno 1%, saremo in recessione e ben oltre la foglia di fico della recessione tecnica, saremo in una recessione brutale che ci ha mangiato quantità forti di prodotto interno lordo, molti ordinativi, che ha glaciato e ha completamente messo sotto ghiaccio il commercio internazionale di cui noi sostanzialmente viviamo, e ha creato un problema enorme alla parte migliore delle produzioni della manifattura italiana. Questa è una cosa che bisogna valutare, e purtroppo questo tipo di valutazione è parte integrante dell'idea di fiducia, come dicevo prima, quel bene immateriale che è fondamentale per far girare l'economia, che è stato brutalizzato abbondantemente da questo tipo di comunicazione che è stata fatta in questi giorni. Sì, è anche stata... lì secondo me si vede un po' di centralità nella comunicazione, oltre che nella gestione in primo luogo delle emergenze sanitarie. Ti ho interrotto, Alberto, scusa. Dicevo, io credo che sia stata molto efficace la gestione sull'idea del paziente zero, sul focolaio di Codogno, e quello è perfetto, sì. Io credo, anche alla luce degli attestati di stima che ci vengono da chi ne capisce, perché parliamoci chiaro, tu e io di questa roba non capiamo assolutamente niente. Più o meno dovremmo capire di robe di comunicazione, di economia, qualcosa di più, sì. Però ecco, quindi la fase della ricerca del paziente zero e dell'isolamento del focolaio importante è stata molto efficace. Quello che non ha funzionato è stato la fase 2, quella di sostanzialmente mettere in quarantena quasi tutto il paese, o almeno 5 regioni, che poi sono una stragrande maggioranza di quello che il paese poi viene, di come viene percepito il paese. I cinema chiusi, i teatri chiusi, i provvedimenti, i bar chiusi, e le comparsate televisive. Cioè, purtroppo fanno capire che era un provvedimento esagerato, perché se no non ci non saresti bar a Milano, scusatemi se insisto, non perché si è interessato, io sono ancora qua quando si fa l'aperitivo, non ho mai fatto un aperitivo a Milano, ma è una follia quella che è stata fatta a Milano con i bar chiusi alle 18 per il corona spritz virus, che colpisce solo durante l'aperitivo. Grazie ad Alberto Orioli. Grazie a voi. Tra l'altro su questo, vabbè, poi risponderò anche ad altri. Sì, ho avuto il senso, anche leggendo le agenzie di Zaia, di Fontana, di Conte, che l'errore sia arrivato non venerdì, ma sabato e domenica, anche come sovraesposizione mediatica da questo punto di vista, e in parte anche lunedì. 349-238-6666 per sms WhatsApp, GR24. Luna dopo luna scorre il tempo, il profumo diventa più intenso, il gusto più elegante, il colore più caldo. Ecco le 18 lune, l'arte del saper aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro. Ho un'impresa e penso a te. Mi dà tassi e penso a te. Mi ritassi e penso a te. Poi mi tassi anche le tasse e penso a te. Ti accanisci e penso a te. Mi prendi tutto e penso a te. Fisco, mi fai disperare. Non riesco più a campare. E contro la tua ostilità io sarò CNA. Ah! Essere CNA ti conviene. Ti difendi dal tartasso, risparmi tempo e sei più contento. Entra in CNA. Vieni su essere.cna.it. Ehi, Mercedes, riguardo a quello che è successo prima, il massaggio, le luci soffuse, la musica, magari non dire niente, ok? Che succede qui dentro? Me l'ha chiesto lui. Classe B180D con MBUX Energizing Comfort e sedili multicontura a richiesta. Ora sì che ci capiamo. Fino al 31 marzo con Leasing My Drive Pass hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz e anticipo zero. Se permuti la tua auto, anche euro 5. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scoprila su mercedes-benz.it. Tiscali ti augura una buona connessione. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga in promo online a soli 25,95 euro al mese con chiamata incluse, modem super wifi e attivazione gratis. Offerta soggetta a limiti geografici. Vai su tiscali.it o chiama il 130. Tiscali, on life. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Ecco una bella noce, perché hanno scelto proprio te? Io valgo doppio, sono conveniente per la spesa e per l'ambiente. Ho residui chimici molto inferiori ai limiti consentiti, meno del 70%. Su questo nessuno può schiacciarmi. Dal 27 febbraio al 4 marzo, noce origine Coop a 2,48 euro la confezione da 500 grammi. La Coop sei tu. San Marco Informatica è il partner per l'innovazione. Scopri un nuovo modo di fare impresa con la Digital Transformation. Contatta un nostro consulente per conoscere i servizi Trust and Fast. Sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso sì, il tema della comunicazione c'è tutto. Qualcuno mi dice dovremmo fare a questo punto una conferenza internazionale per fare il punto dopo una settimana e dire che la mortalità è sotto controllo. Adesso vediamo un attimo. E i casi comunque sono sotto controllo. Sì, io penso che dopo il danno fatto, io penso da manuale di scuola, diciamo, di comunicazione, perché da giovedì, dove tutto andava bene, siamo arrivati a lunedì, dove non vuole venire più nessuno in Italia, e guardate che l'Italia non è solo la Lombardia, attenzione bene. Però sì, penso che serve una risposta di comunicazione, che non vuol dire che manchi il contenuto, ma molto forte, molto istituzionale e molto rassicurante, appena saremo in grado di darla. Sì, qualcuno mi scrive conferenza in inglese tenuta da Di Maio. Vabbè, non è che Renzi e Berlusconi in inglese lo sapessero così bene, prima. Neanche Rutelli, abbiamo tutto il file del Please Do Visit Italy. Però no, penso che sia importante un'iniziativa a livello internazionale, cioè che poi non passi sotto traccia, dopo tutto sto clamore, che la situazione è tornata o va a normalizzarsi. Questo sarebbe sbagliato. Dunque, prima di arrivare a parla dell'impatto del coronavirus sul settore manifatturiero, mi chiede uno ascoltatore. Guardi, ne stiamo parlando da giorni. Il problema è che non si riesce ancora a capire, come spiegava bene Orioli, perché alcuni settori sono compromessi, ahimè, si teme, per l'anno, turismo e moda. Altri, come la meccanica di precisione, cioè le forniture, potrebbero, diciamo, recuperare. Il settore dei consumi l'abbiamo appena analizzato, insomma, dipenderà molto da un insieme anche di altre variabili. Allora, prima di tutto la borsa. Ora, la borsa già oggi ci dà qualche fotografia, perché Milano è vero che perde anche parecchio, meno 2,60%, però peggio fa Parigi, meno 3,30%, Francoforte meno 3,20%, Londra meno 3,5%, il Dow Jones meno 1,26%. Quindi Milano, lo spread oggi è risalito a 164 punti base dopo i 150 di ieri. E quindi però le richieste per BTP a 10 anni sono state sono tutte state assegnate, cioè, o meglio 5 miliardi per 4 miliardi offerti, il rendimento è lo 0,95%, assegnati anche 2 miliardi e mezzo di BTP a 5 anni, 0,35% il rendimento, anche qui buona la richiesta. La borsa, al di là poi dell'andamento degli indici, come sempre con i colleghi di Radio Corri sulle 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ora, poi diamo intanto i titoli, poi vediamo. ST Microelectronics meno 6,90%, Juventus meno 6%, c'è anche la perdita ieri in Champions League, Azimut meno 5,20%, Amplifon meno 5%, Nexi meno 4,90%, Prism meno 4,40%. Come Unicredit e Campari e Tenaris. Il 4,30 lo perdono Poste Italiane, Leonardo e il Banco BPM, 4% il calo di Unipol, meno 3,90 Banca Generali e Intesa San Paolo, meno 3,80 Exor, Ubibanca, Salvatore Ferragamo e Ferrari, ma anche Biper Banca. Il 3,60 lo perde Saipem, il 3% Pirelli, il 2,70 è il calo di A2A Atlantia e Atlantia, Eni meno 2,5 come Mediobanca. Di positivo c'è solo Case New Holland, CNH più 0,90%. Non do ogni volta, a me non piace dare bruciati 30 miliardi oggi 14, perché la borsa veniva dai massimi, così come non diciamo creati 30 miliardi, è inutile dire, sono bruciati teoricamente, nel senso che li può riprendere la borsa questi soldi. Però vorrei capire il tono complessivo invece della seduta, anche e soprattutto sulle borse europee. Sì, diciamo che fin dall'avvio è stata una seduta fortemente negativa, che poi è peggiorata a ridosso dell'apertura di Wall Street. Infatti, a tenere banco nel clima generale naturalmente di preoccupazione per gli impatti dell'epidemia sull'economia è il timore appunto di una diffusione negli Stati Uniti. Oggi ad esempio è uscita una stima di Goldman Sachs che ha azzerato le previsioni di crescita degli utili delle aziende statunitensi per l'anno in corso, proprio a causa della dei possibili impatti legati all'epidemia. Milano è arrivata a perdere oltre 3,5 punti e poi alla fine ha ridotto, come ricordavi tu, a 2,7%. Hanno fatto peggio le borse europee, segno che appunto il mercato ha già scontato i timori, ha scontato nelle sedute molto negative l'inizio settimana i timori legati alla diffusione in Italia, e ora il tema è più globale, europeo, ma anche appunto mondiale. Sì, devo dire che Milano si è riportata al livello di inizio dicembre dell'anno scorso, quindi ha bruciato tra virgolette 2 mesi di crescita, però non si è riportata, cioè, a dicembre la borsa era molto cresciuta, lo dico perché bisogna anche avere un minimo di orizzonte a inquadrare il tema. Ha perso molto, ma veniva da record anche il FTSE MIB, Paolo, per cui dire che siamo tornati a inizio dicembre non vuol dire che siamo tornati in un periodo del cavolo, ma che siamo tornati, abbiamo bruciato questi ultimi 2 mesi di crescita, ma eravamo già su livelli alti, ricordiamolo, perché è anche facile vendere quando tu hai livelli alti e i titoli ce li hai in carico magari a molto meno, no? Certo, i listini erano ai massimi, come giustamente ricordi, e ora con il calo di oggi molti listini sono arrivati a perdere rispetto a quei massimi il 10%, quindi tecnicamente sono entrati in correzione, ma non solo Piazza Affari, è così per Piazza Affari, ma è così anche per l'Eurostock 600, Francoforte, Londra e anche per il Dow Jones, quindi mm-hmm. è un calo generalizzato, e appunto del 10% rispetto ai massimi di dicembre, che erano appunto i massimi storici, certo. E quindi naturalmente chi aveva guadagnato, chi ha comprato non sui massimi, ha perdite molto minori. E appunto, e quello va a spiegare anche perché si venda con tanta facilità. Nel ringraziare Paolo Paronetto, do, ma così pro forma, i migliori e i peggiori: Gambero Rosso più 6,80, Beef più 4,90, Friendly Energy più 4,80, Full Six più 4,40, il peggiore Tesla meno 13,50 e poi TripAdvisor meno 8,40. Però vorrei vorrei anche dire una notizia che le agenzie stanno battendo adesso. Ha riaperto il Duomo di Milano ai turisti, e quindi è un altro piccolo segnale, neanche tanto piccolo perché è molto simbolico, di normalizzazione. Ieri hanno riaperto i bar, ma non al banco. I turisti possono andare al Duomo, speriamo che con la prossima settimana si normalizzi tutto. La cosa più importante da capire in Lombardia in questo momento, perché Veneto e Piemonte hanno già dato delle indicazioni su questo, è se riapriranno le scuole anche in Lombardia lunedì. Le dichiarazioni di Zai e di Cirio invece dicono che sostanzialmente il Piemonte e il Veneto vogliono andare in quella direzione. Adesso vorrei, adesso devo dare la linea sul traffico, poi però ascoltiamo invece, per allargare anche lo spettro, non solo quanto a le dichiarazioni del ministro dell'economia Gualtieri questa mattina a ospiti di Radio 24, per quello che riguarda l'impatto del coronavirus e della gestione del coronavirus, aggiungo io, sull'economia italiana, ma anche altre prospettive di carattere fiscale sull'iniziativa del governo. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Appunto, dopo l'aggiornamento veniamo a quanto avevo anticipato sulle dichiarazioni anche di carattere istituzionale sul fronte economico, e quindi l'intervento del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri questa mattina a Radio 24 durante il programma di Simone Spezzi e Maria Latella 24 mattina. Intanto la prima domanda, insomma, che tutti ci siamo posti è quanto l'impatto del blocco di attività produttive in alcune aree e comunque difficoltà nel commercio dovuto al coronavirus possa portare l'Italia in recessione, visto che già le stime erano dello 0,1, 0,2, 0,3% quest'anno. Gualtieri, prudente, dice sono impossibili in questo momento stime precise sull'impatto finale. Se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo è che in questo momento è impossibile fare stime precise, perché per avere una stima bisognerebbe sapere qual è l'evoluzione del virus e se, come noi auspichiamo, le misure di contenimento saranno efficaci e per quanto tempo ci vorrà per debellarlo. Queste sono cose che nessuno oggi sa, e quindi veramente dare i numeri non è ciò che serve. Quello che serve oggi è varare le misure necessarie. Noi eravamo fiduciosi all'inizio dell'anno che con la manovra e con l'aumento degli investimenti taglio al cuneo fiscale, una serie di interventi a sostegno della crescita e della coesione sociale e territoriale. Avremmo rilanciato l'economia di un paese che abbiamo preso fermo nel 2019. È evidente che col coronavirus, al di là della quantificazione esatta del suo impatto, tutto ciò non è sufficiente, serve un pacchetto aggiuntivo di misure, sia di sostegno diretto, come dicevo, a territori e imprese colpite, sia anche più in generale di rilancio dell'economia. È esattamente quello che stiamo facendo, anche in dialogo ovviamente con l'Europa. E poi l'altro tema che forse è un po' prematuro affrontare, anche se noi ci abbiamo provato nei giorni scorsi, che tipo di flessibilità l'Europa ha detto, insomma, per fenomeni esterni e appunto fenomeni meteorologici, in questo caso epidemici, esiste già una flessibilità prevista dall'Europa, e Gualtieri oggi ha confermato appunto da 24 mattino da Simone Spezia e Maria Latella che l'Italia è pronta a usare gli spazi sulla flessibilità nei conti. Entriamo in questa situazione difficile con una finanza pubblica in buona salute. Naturalmente siamo pronti anche nella definizione delle misure a utilizzare gli spazi di flessibilità, o meglio di adattamento alle circostanze eccezionali che sono previste. E poi va bene il passaggio sul maggior coordinamento nazionale delle misure, ha detto Gualtieri bene che ci sia un maggior coordinamento nazionale sulle misure poi modulate sulle effettive necessità. Allora, e questa era un po' anche la polemica nata tra Conte e i governatori delle regioni, diciamola tutta, secondo me forse è stato mal interpretato il Presidente del Consiglio, o la frase non è uscita perfetta, quella sulle autonomie. Nessuno mette in discussione la pertinenza della sanità alle regioni, né il fatto che le regioni in questione, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, siano le regioni tra le migliori, forse le migliori in Italia in assoluto come sistema sanitario. Quello che si è detto è che di fronte a un'emergenza invece di carattere nazionale, lì il coordinamento lo deve dare per forza il soggetto nazionale, che non vuol dire poi levare o rimettere in discussione la gestione della sanità, quella ordinaria, in capo alle regioni, perché qualche problema anche sull'approvvigionamento, sul coordinamento delle iniziative, come ho detto, ma non voglio tornare sui temi di apertura, c'è stato, e allora è giusto a mio avviso che a fronte di un'emergenza nazionale che riguarda un pezzo importante della nazione, il coordinamento sia di carattere nazionale. Cambiamo tema invece, perché Gualtieri ha parlato anche, lentamente torniamo anche a una forma di normalità anche nei temi di questo programma, ha parlato anche dell'IRPEF e ha confermato la tabella di marcia, quindi per il taglio dell'IRPEF. Adesso servono interventi aggiuntivi, ma serve anche proseguire nell'attuazione del programma di governo, che comprende anche la riforma fiscale, di cui un primo scaglione è stato già realizzato. Stiamo lavorando e l'obiettivo è di mantenere la tabella di marcia che ci siamo dati. Naturalmente dipenderà anche dall'evoluzione della situazione, ma stiamo lavorando per arrivare a un disegno di legge delega per la fine di aprile, poi ovviamente concluderà il lavoro. Quindi al momento tabella di marcia confermata, Ministro. Ma questa vicenda ci richiede di realizzare misure aggiuntive e straordinarie, e stiamo lavorando pancia a terra per farlo, ma ci rafforza nella convinzione che dobbiamo attuare il programma di lavoro che ci eravamo dati e tutte le sue direttrici: semplificazione, digitalizzazione, riforma fiscale, Green New Deal, sono componenti essenziali di un'azione di rilancio del Paese. E poi le partite IVA, perché il governo, ha detto Gualtieri, nonostante il costo, abbiamo deciso di mantenere il regime della flat tax fino a 65.000 euro, anche se ha anticipato che vi sono elementi di iniquità sulla gestione degli assegni familiari e sull'assegno unico. Noi, nonostante il costo di questa misura e alcuni elementi di criticità, abbiamo deciso di mantenere il regime dei minimi sulla cosiddetta flat tax al 15% fino a 65.000 euro, che è una misura molto costosa, che originariamente avevamo anche inteso di non mantenere, che invece abbiamo mantenuto proprio per evitare un aggravio di carico fiscale per il mondo delle partite IVA. Secondo, esistono sicuramente alcuni elementi di iniquità per quanto riguarda, per esempio, la questione delle assegni familiari, diciamo così, detrazioni per figli a carico, e il progetto di assegno unico a cui stiamo lavorando vuole proprio unificare i benefici anche per autonomi e dipendenti pubblici e affrontare la questione dell'incapienza. Quindi insomma ci sono una serie di profili e infine c'è il terzo, quello della semplificazione del sistema fiscale e anche di un atteggiamento che io trovo giusto, che è quello che è stato un po' annunciato da Ruffini, che abbiamo nominato all'Agenzia delle Entrate, di concepire l'amministrazione fiscale e quindi la filosofia del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti più con la logica del tutor che con quella dell'autovelox. Vabbè, tutor o autovelox a parte, devo dire, qualcuno mi sta chiedendo al 349-238-6666, ma sul tema del governo, diciamo, di unità nazionale, governo istituzionale, dunque Gualtieri ha escluso, ha detto zero possibilità, le ha date anche Boccia del PD, la stessa Meloni di Fratelli d'Italia, no Inciucci, Conte ha detto siamo già un governo unito, non siamo un governo di unità nazionale, Salvini ha detto l'unico piano shock è mandare Conte a casa e poi dobbiamo uscire dal pantano. Comunque, beh, già il fatto che stiano tornando le polemiche politiche ci porta paradossalmente a un po' più di normalità. Vabbè, vedremo domani. Intanto da Sebastiano Berzioni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.